Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti di Roberta Giordano. Erano già moltissime, come immaginate, fino a poco tempo fa le notizie della giornata. Arrivo sempre con voi qui a chiusura del giorno per raccontarvele, e purtroppo c'è anche una notizia che avremmo volentieri fatto a meno di raccontare. Già si profilava come una cosa grave, invece è andata anche peggiorando. C'è una nuova tragedia del mare. Fino a un'ora fa si parlava di difficoltà di un barcone, qualcuno aveva avvistato dei corpi ma non era sicuro, invece adesso si parla di decine di nuovi morti per l'emergenza immigrazione. I temi comunque saranno molti e siamo insieme fino alle 22. Vi ricordo sempre anche che c'è la pagina di Effetto Notte per riconoscerla, Effetto Notte trattino Roberta Giordano. Ma partiamo dai titoli. Quindi, come vi dicevo, questa nuova ennesima tragedia dell'immigrazione, un barcone che si è rovesciato nel canale di Sicilia. Si parla di circa 50 morti e tra questi anche una decina di bambini. 200 per fortuna sono stati messi in salvo, sono scattati soccorsi con navi, elicotteri della Marina Italiana, e il naufragio è venuto a 70 miglia dalla Valletta. All'Italia c'è il via libera dell'aumento di capitale, le Poste Italiane, sarebbe il socio pubblico, assicurano: entreremo senza usare i soldi dei conti correnti. Il decreto contro il femminicidio ora è legge. Il provvedimento passa con 143 sì al Senato. Lega, SEL e Movimento 5 Stelle non hanno però partecipato al voto. Silvio Berlusconi si sfoga a proposito della sua situazione giudiziaria. Dice: per me c'è un futuro infausto, farò la fine della Timoshenko, cioè l'ex premier ucraina. Così dice oggi la scelta da parte dei suoi legali dei servizi sociali. È morto Erich Priebke, che fu responsabile del massacro delle fosse ardeatine, aveva 100 anni e non si era mai pentito. E c'è la partita Danimarca-Italia, l'Italia in realtà è già qualificata, ma è per guadagnarsi un posto tra le teste di serie per Brasile 2014, e al momento ci dovrebbe essere il pareggio, se non sbaglio, di 1-1, man mano vi aggiornerò. E cominciamo quindi, prima di sentire poi gli ospiti su vari temi, ad approfondire queste notizie. Quindi partiamo da questo nuovo disastro, questa nuova strage di persone nel canale di Sicilia. Il dramma dell'immigrazione purtroppo non ha fine. È un barcone, come vi dicevo, con circa 250 migranti, si è trovato in gravi difficoltà, forse si è capovolto, si parla appunto di decine di morti, tra cui anche bambini, ma c'è Sergio Nava che ci dà gli ultimi aggiornamenti. Sergio. Buonasera Roberta. Sì, come hai detto, a una settimana esatta dalla tragedia di Lampedusa, il mare del Mediterraneo torna ad essere scenario di una nuova tragedia dell'immigrazione. Ci sono circa 50 morti, secondo le ultime notizie, tra cui 10 bambini nel nuovo naufragio avvenuto questa sera nel canale di Sicilia. Il naufragio si è verificato circa 60 miglia a sud dell'isola di Lampedusa, ma in acque territoriali dell'isola di Malta. Secondo la Marina maltese, la nuova tragedia si sarebbe verificata intorno alle 17:15, quando un aereo militare in ricognizione nel canale di Sicilia ha per primo avvistato un barcone con circa 250 migranti a bordo, che hanno cominciato ad agitarsi per farsi notare. Questa ressa però ha provocato nei fatti il capovolgimento dell'imbarcazione, visto proprio in presa diretta dall'aereo militare, e a questo punto una nave militare maltese, la P61, è stata inviata per prima nell'area per prestare i soccorsi. Poco dopo è stata raggiunta dalla nave libera della Marina Militare Italiana. Le operazioni di salvataggio hanno permesso di soccorrere circa 150 migranti tratti in salvo dalla nave maltese, e altri 50 poi sono stati soccorsi dalle due navi della nostra Marina Militare sopraggiunte nel frattempo. 50 purtroppo però sembra non ce l'abbiano fatta e sono morti annegati. 10 bambini salvati dai mezzi di soccorso italiani sono stati subito trasportati nel frattempo a Lampedusa. È la nuova drammatica conferma della situazione di emergenza, così fonti di Palazzo Chigi hanno riferito il primo commento del premier Enrico Letta, che ha ribadito che intende portare il tema dell'immigrazione al prossimo vertice europeo di fine ottobre. È tutto. Grazie Sergio Nava. E adesso passiamo invece dall'Italia, che finalmente si parla di fumata bianca, alla CDA che c'è stato oggi, che ha approvato l'aumento di capitale. La novità dovrebbe essere anche l'ingresso, come già si era detto ieri, delle Poste Italiane nella compagnia, Paolo Panceri? Così? Esatto, le Poste entreranno con 75 milioni di euro, mentre le banche Intesa San Paolo e Unicredit garantiranno al massimo 100 milioni su un totale di 500 milioni previsto dalla manovra, che è stata approvata, come dicevi poco fa, oggi dal Consiglio di Amministrazione dell'Italia per rilanciare la compagnia. Per quanto riguarda le Poste in particolare, l'amministratore delegato Massimo Sarmi ha già iniziato a lavorare al nuovo piano industriale per Alitalia. E Sarmi ha chiarito un punto importante per quanto riguarda tutti gli utilizzatori dei servizi delle delle Poste ha detto che le risorse finanziarie saranno reperite soltanto con l'uso delle attività industriali e di servizio di gruppo, quindi non saranno utilizzati, ha rassicurato l'amministratore delegato di Poste, né i conti correnti postali, né i buoni e tantomeno i libretti postali. Sul piano delle sinergie, l'ipotesi al momento allo studio è di fare di Mistral Air, la compagnia aerea di Poste italiane, il vettore low cost di Alitalia. E per il momento è tutto. Grazie Paolo Panceri. E un altro risultato è che c'è finalmente il via libera al decreto sul femminicidio, cioè è diventato legge. Il Senato doveva dare il suo voto entro il 14 ottobre, quindi tutto sommato è avvenuto in tempi record, considerando i tempi della politica. Anche Palazzo Madama quindi ha approvato il testo, la scadenza era il 14 ottobre. Lega, Movimento 5 Stelle e SEL non hanno però partecipato al voto, denunciano che si tratti di un pacchetto sicurezza camuffato. Poi ne parleremo con un ospite illustre di questo argomento, che è stata anche consulente per l'ONU sul femminicidio. Su 11 articoli, secondo Movimento 5 Stelle e SEL, solo 5 riguardano la tutela delle donne. Allora sentiamo nel dettaglio le misure adottate. Polemiche a parte, adesso gli stalker potranno per legge essere portati in carcere se colti sul fatto. In caso di minaccia all'integrità fisica della donna, poi saranno allontanati da casa e sottoposti al braccialetto elettronico. Queste sono solo alcune misure del decreto sul femminicidio convertito in legge questa mattina. E ancora, aggravante di un terzo della pena se alla violenza assiste un minore, se la vittima è incinta o se il maltrattamento è commesso dal coniuge o dal compagno, non importa se ex o non convivente. Di fronte a sospette lesioni, invece, il responsabile potrà essere ammonito, aggiungendo anche la sospensione della patente. Le vittime straniere avranno diritto al permesso di soggiorno, una sorta di atto umanitario. Le donne che non potranno permettersi un avvocato poi avranno diritto al patrocinio legale gratuito. Inoltre, finanziamenti in arrivo per i centri antiviolenza e le case rifugio. Nel 2013 10 milioni di euro, 7 nel 2014 e altri 10 all'anno a partire dal 2015. Claudia Vanni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Visto che stiamo parlando di donne e di femminicidio, volevo anche ricordarvi che la giornata internazionale delle bambine, quella di oggi, istituita dalle Nazioni Unite per sottolineare la sfida che le ragazze devono affrontare per vedere riconosciuti i propri diritti. Secondo un rapporto dell'UNICEF, 31 milioni di bambine nel mondo non vanno a scuola, e questo significa che molto più facilmente vanno incontro a violenze sessuali, a sfruttamento sessuale, matrimoni precoci. L'ultimo caso che ha avuto una risonanza internazionale giorni fa è stato quello di una bimba yemenita di 8 anni, morta dissanguata per le ferite dopo la prima notte di nozze col marito quarantenne, e rischiano anche di trovarsi a crescere un bambino quando dovrebbero ancora giocare con le bambole. Se andassero a scuola, dice l'UNICEF, avrebbero famiglie meno numerose, figli più sani, maggiori opportunità di proteggere se stesse e i loro bimbi dalle malattie, malnutrizione, AIDS, appunto sfruttamento sessuale. E l'UNICEF in questa giornata internazionale ha annunciato una serie di eventi che hanno preso il via in tutto il mondo per promuovere il tema di quest'anno, attraverso il quale, che è quello dell'istruzione delle bambine, attraverso il quale si riconosce l'importanza di prospettive nuove e creative per migliorare l'istruzione delle ragazze. Altra notizia è che oggi è morto Erich Priebke, 100 anni aveva, il gerarca nazista condannato all'ergastolo per l'eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma. Ha 335 morti sulla coscienza e però non ha mai avuto un segno di pentimento. Arianna Filippini ha chiesto un commento a Rosetta Stame dell'Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri, e figlia di Nicola Stame, che era tenore e partigiano ucciso proprio quel 24 marzo 1944. Lui si ritiene un uomo d'onore, e so che ha lasciato nel testamento questo. Avrebbe dimostrato un minimo di onore quando io, al secondo processo, gli ho fatto una domanda. Non l'ho offeso, non l'ho chiamato boia, niente di tutto questo. Io l'ho chiamato signor Priebke. Gli ho chiesto, ci può dire almeno la dinamica com'è stata per poter elaborare il nostro lutto? Lui ha abbassato gli occhi, non ha risposto. Lui mi doveva rispondere, perché lui è stato quello che li ha chiamati dal camion, e man mano che scendevano li ha chiamati per nome e li ha depennati. Non lo so fino a che punto può lasciare scritto che lui era un uomo d'onore. Oggi cosa prova che Priebke non c'è più? Non provo nulla. E passiamo alla politica. Con Silvio Berlusconi dice: i miei avvocati dicono che il mio futuro è infausto, mi faranno marcire in galera, e come ci dimostra il caso Timoshenko, dopo molte manifestazioni alla fine anche la ribellione contro queste vicende si placa. Così avrebbe detto Berlusconi, a quanto riferisce almeno chi era presente durante un incontro oggi con gli eurodeputati. Proprio oggi i legali di Berlusconi hanno depositato presso l'ufficio esecuzione della Procura di Milano la richiesta per le pene alternative al carcere, cioè i servizi sociali, in merito appunto alla condanna per il processo Mediaset. La domanda alla fine è arrivata, 4 giorni prima della scadenza, e conferma le anticipazioni della difesa. Silvio Berlusconi sceglie i servizi sociali per scontare la sua condanna al processo Mediaset. L'ex premier ha fatto avere all'ufficio esecuzione della Procura di Milano la sua richiesta per le pene alternative al carcere. Ora si avvierà un'istruttoria che terminerà con un'udienza del Tribunale di Sorveglianza, ma non prima della prossima primavera. Sono lunghi infatti i tempi e diversi i passaggi da fare prima, a cominciare dai colloqui degli assistenti con il condannato, che ai servizi sociali dovrà scontare solo 1 anno dal momento che 3 sono coperti da indulto. Dalla fondazione di Mario Capanna a quella di Don Mazzi, più realtà si sono offerte per ospitare il cavaliere, che potrebbe preferire però soluzioni interne come le Onlus Media Friends, quelle del Milan, o realtà legate alla Mondadori. Berlusconi ha però spostato di recente la sua residenza a Roma e questo potrebbe spalancare anche altre opzioni. Fino all'udienza del Tribunale di Sorveglianza, l'ex premier, in quanto libero sospeso, per dirla in gergo tecnico, non avrà alcuna restrizione. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E a questo proposito anche la ministra della Giustizia Cancellieri, oggi a Radio 24, assicura che il cavaliere non sarà interessato dalle misure di indulto, amnistia a cui il governo sta lavorando dopo l'appello di Napolitano contro, l'avete sentito in questi giorni, il sovraffollamento delle carceri. Berlusconi rientrerà o no nella sua proposta di legge sull'amnistia e indulto? Io penso proprio di no. Quindi per lei Berlusconi è fuori? Sì, sì, sicuramente. Ecco, non ha avuto pressioni dal Quirinale in qualche direzione? No, assolutamente. E nessuna indicazione neanche? Neanche. Senta, ma lo sa che per molti sarà un provvedimento molto, molto impopolare? Beh, certo, lo so bene cosa significa, anche perché mi sono capitate anche nel mio passato queste cose. Ma... Quindi non ha paura dell'impopolarità? No, no. Credo che la gente capisca molto, molto più di quanto noi non pensiamo. Questa era la ministra Cancellieri oggi a Mix 24 con Minoli. E intanto gli studenti tornano in piazza, in 100.000 contro il decreto scuola. I studenti di 80 città italiane sono scesi per manifestare questa mattina per chiedere più investimenti sulla scuola pubblica e sull'istruzione, come spiega Daniele Lanni della rete Studenti Medi, che ha lanciato l'iniziativa ai microfoni di Valentina Innocente. Siamo in piazza per portare le nostre idee, per lanciare e gridare il nostro slogan che si scrive scuola, si legge futuro, per dire che l'istruzione deve tornare al centro delle politiche di questo governo e non abbiamo intenzione di lasciare che le nostre rivendicazioni passino in secondo piano per altre questioni. Siamo non violenti, continueremo a esserlo. Infine parliamo del Nobel per la pace, sono stati naturalmente assegnati una sfilza in questi giorni, questo è forse quello considerato più politico, è stato assegnato a un'organizzazione internazionale che si batte contro l'uso delle armi chimiche. Pare sia entrato nella rosa dei favoriti all'ultimo minuto e la TV norvegese NRK, come già aveva fatto lo scorso anno per il Nobel vinto dall'Unione Europea, ha anticipato la notizia 1 ora prima sul suo sito internet, poi l'annuncio ufficiale. Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2013 is to be awarded to the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, for its extensive work for eliminating chemical weapons. Il Nobel per la pace è stato assegnato dunque all'OPAC, l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, fondata nel 1997, ovvero 4 anni dopo la firma della Convenzione contro l'uso delle armi chimiche. Sconosciuta ai più, l'OPAC, che ha sede all'AIA, è finita sotto i riflettori solo di recente per il suo ruolo nella risoluzione della crisi in Siria. Lo scorso 28 settembre, infatti, una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU l'ha incaricata di inviare in Siria alcuni suoi ispettori per controllare lo smantellamento dell'arsenale chimico del regime di Bashar al-Assad. Sono 41 gli stati membri dell'esecutivo dell'OPAC, di cui l'Italia ha la vicepresidenza, e il suo direttore generale è dal 2008 il diplomatico turco Uzuncu, che ha commentato così il premio. Per 15 anni abbiamo fatto il nostro dovere contribuendo alla pace nel mondo. Le ultime settimane hanno dato ulteriore impulso alla nostra missione. Accetto con umiltà il Nobel per la pace. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo sarà uno degli argomenti che approfondiremo poi con un ospite che intende anche di difesa, di antiterrorismo, di armi eccetera eccetera. Però intanto chiudiamo questa serie di notizie con, vi dicevo all'inizio, la partita Danimarca-Italia che si sta giocando a Copenaghen. Per il momento viaggiano sull'1-1, sul pareggio. Abbiamo la pausa per aggiornare chi sta viaggiando, torniamo tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi. Prima di passare al primo ospite di questa sera, vi ricordo i titoli di oggi. C'è stato purtroppo un nuovo dramma dell'immigrazione nel mare, un altro naufragio tra Malta, Lampedusa e la Libia. Si parla di circa 50 morti, tra i quali una decina di bambini, 200 quelli messi in salvo, scattati soccorsi con navi ed elicotteri della Marina italiana. Il naufragio è avvenuto più o meno a 70 miglia dalla Valletta. Per l'Italia c'è il via libera all'aumento di capitale e le Poste italiane, il socio pubblico, cioè, assicurano entreremo senza usare i soldi dei conti correnti. È legge il decreto contro il femminicidio, il provvedimento passa con 143 sì, Lega, SEL e Movimento 5 Stelle non hanno partecipato al voto. Si sfoga Silvio Berlusconi a proposito della sua situazione giudiziaria, dice: per me c'è un futuro infausto, farò la fine della Timoshenko, riferendosi all'ex premier ucraina, e oggi c'è stata la scelta dei servizi sociali. È morto a 100 anni Erich Priebke, che fu responsabile del massacro delle Fosse Ardeatine, non si era mai pentito. In campo per il calcio ci sono sempre per le qualificazioni mondiali, anche se l'Italia è già qualificata ma vuole conquistarsi una testa di serie, insomma, sono 1-1 Danimarca e Italia, stanno giocando a Copenaghen. E passiamo al primo argomento da approfondire. Come vi dicevo, quindi oggi il leader del PDL, almeno il leader adesso tra lui e Alfano, insomma, ancora non è chiarissima la posizione. Comunque, quello che finora lo è stato si è sfogato, dice: per me c'è un futuro infausto, farò la fine di Yulia Timoshenko, che è l'ex premier ucraina condannata, forse qualcuno ricorderà, a 7 anni di reclusione in un processo che molti osservatori ritengono di matrice politica. Ha fatto un po' questo paragone. Oggi però la notizia è che c'è stata da parte dei suoi legali la scelta della affidamento ai servizi sociali, diciamo un po' in extremis, perché si arrivava alla scadenza il 15 ottobre in cui doveva decidere, ed è partito quindi così quell'iter che porterà l'ex premier, ma non prima della primavera estate del prossimo anno, a dover eseguire per almeno 10 mesi e mezzo un percorso di reinserimento sociale per scontare la condanna a 4 anni, che poi sono stati ridotti a 1 con l'indulto, per il caso di Diritti TV Mediaset, confermata, vi ricordate, dalla Cassazione lo scorso 1 agosto. E l'affidamento in prova ai servizi sociali passa per l'accettazione della condanna che è stata inflitta, anche se Berlusconi si è sempre proclamato innocente. Ma la curiosità che vorrei, diciamo, chiarire è questa: in quali casi si può chiedere come pena alternativa quella di essere affidati ai servizi sociali? C'è, per risponderci, in collegamento Giuseppe Busia. Buonasera Giuseppe. Buonasera. Giurista ed esperto di diritto costituzionale. Allora Giuseppe, quindi questo è, diciamo, lo spunto per darci modo di parlare di questa pena alternativa, che penso ovviamente non riguardi solo Berlusconi, anche se forse in maniera un po' diversa rispetto ad altri casi. Ma intanto in cosa, per quali pene, quali tipo di pene, di condanne, di quanti anni si può scegliere questa alternativa? Sì, la pena può essere, diciamo, l'affidamento ai servizi sociali è possibile per le pene non superiori a 3 anni normalmente, sia per chi è già detenuto e quindi si avvia un processo all'interno dell'istituto di pena per verificare se ci sono le condizioni, sia a seguito soprattutto di una legge del 98, diciamo, approvata dal centro-sinistra, come curiosità, anche di chi non ha ancora scontato la pena e però viene valutato ancor prima sulla base della condotta tenuta dopo la condanna, diciamo, e quindi può accedere a questo. Dicevo, il limite è non superiore a 3 anni in linea generale. Ci sono alcuni reati che sono esclusi, reati più gravi, cioè è una misura in qualche modo premiale, non si va in carcere perché si ritiene che la rieducazione possa venire meglio fuori, come in genere accade, ma non si può accedere, ad esempio, se si sono compiuti reati legati al terrorismo, omicidi, rapine aggravati, reati più gravi, oppure se si è tentato di evadere, si è evasi o si sono commessi dei reati durante i permessi premio, sempre per chi ha già cominciato il carcere. E poi ci sono dei casi particolari che l'ordinamento aveva via disciplinato, che sono per i tossicodipendenti o gli alcoldipendenti, gli alcolisti, che vogliono intraprendere oppure iniziare o continuare un programma terapeutico, oppure le persone affette da AIDS o gravi deficienze immunitarie che superano anche i limiti che ho ricordato. Ultimo capitolo, ultima leggina speciale, quella che adesso è un po' in disuso, però erano gli obiettori di coscienza totali, quelli che rifiutavano il servizio di leva, il servizio civile. Allora, per far sì che non andassero in prigione per una ipotesi di reato derivante da una scelta ideale, era prevista la possibilità dell'affidamento ai servizi sociali. Però in buona sostanza che cos'è? Invece di andare in prigione per lo stesso periodo, quindi per la stessa durata della pena, si viene affidati a un servizio sulla base di una valutazione di un percorso che, come tu dicevi, comincia oggi, comincia con l'istanza ed è particolarmente articolato. Quindi il discrimine, dicevamo, è una pena che non superi i 3 anni e poi naturalmente alcuni reati sono esclusi, però leggevo che l'affidamento in prova non deve per forza risolversi nello svolgere un'attività all'esterno, in una onlus ad esempio, ma basta anche seguire un percorso di incontri con assistenti sociali nel proprio domicilio, che questo mi sembra abbastanza comodo tutto sommato, insomma. O no? Questo, ci possono essere delle ipotesi e questo dovrà essere valutato, perché adesso il cardine del giudizio, c'è stata naturalmente un'istanza e non ne conosciamo ancora il contenuto, avrà avanzato delle richieste, però scatta tutto un percorso che vede al centro innanzitutto il Tribunale di Sorveglianza, che è l'organo che dovrà decidere e deciderà, e la decisione che prenderà dopo aver sentito i centri di servizio sociale degli organismi periferici del Ministero della Giustizia, dell'amministrazione penitenziaria, che devono verificare, fare una vera e propria inchiesta di servizio sociale. Adesso il personaggio noto Berlusconi, di lui sappiamo tutto, però normalmente si fa una vera inchiesta sull'ambiente familiare, l'ambiente in cui vive la persona, eccetera. Questa inchiesta, i risultati di questa inchiesta vengono portati a conoscenza del Tribunale e il Tribunale, la cosa importante, la risposta definitiva alle domande che tutti si stanno facendo per il deputato, per il condannato eccellente Berlusconi, ma che poi è il centro vero della decisione, è quella ordinanza che viene decisa dal Tribunale di Sorveglianza, che scrive e prescrive quello che si chiama il verbale di determinazione delle prescrizioni, cioè vengono indicate una serie di prescrizioni che diranno al condannato dove deve stare. Ecco, quindi non può scegliere in realtà il condannato, non è che dice io voglio andare ad aiutare i bambini con degli handicap, no. No, lui può proporlo, può argomentare le ragioni per le quali ritiene sia preferibile, poi ci sarà appunto questo ufficio che farà questa indagine e poi sempre il Tribunale deciderà, e non solo deciderà a quale centro affidarlo, ma anche dove dovrà dimorare, quale sarà la sua libertà di movimento. Anche la libertà di movimento viene decisa, non per tutti è uguale. Ci sono casi in cui ad esempio viene vietato di andare in determinate parti del territorio o prescritto di stare in un determinato comune, probabilmente non sarà il caso di specie, ma queste sono le possibilità che ci sono. Ci sono anche degli obblighi di lavoro, potrebbe prescrivere lavora un certo numero di ore o meno. Adesso noi non possiamo prevedere quale sarà nel caso concreto la prescrizione, naturalmente il condannato ha delle caratteristiche speciali che dovranno essere valutate dal Tribunale e quindi da un giudice che valuterà un'istanza, ci sarà un'udienza. Che però non comportano, penso, privilegi, no? Nel senso che un Tribunale di Sorveglianza deciderà in base a una serie di caratteristiche e di condizioni, ma ovviamente... Ovviamente, la legge naturalmente è uguale per tutti e dovrà tenere conto della persona. In realtà è un giudizio nella normalità, adesso noi stiamo guardando un caso assolutamente eccezionale, ma sono, ed è un istituto di grande civiltà, per cui si dice il carcere può far male, può non rieducare. Dimmi solo una cosa proprio sinteticamente, Giuseppe, prima di salutarci. C'è un'ampia percentuale in Italia di persone che possono accedere come pena alternativa ai servizi sociali? Sono sicuramente molte accedono e auspicabilmente in futuro saranno sempre di più. Purtroppo, come si sa, le nostre carceri sono sovraffollate, si vive in condizioni inumane, quanto più si riesce a scontare la pena fuori, tanto più statisticamente la rieducazione avviene. Per persone che non sono condannati eccellenti e che sono quelle da aiutare veramente. Grazie Giuseppe Busia, ti ringrazio. Grazie a te e a voi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E raccontarvele sempre qui Roberta Giordano con voi tutte le sere, dal lunedì al venerdì, ve lo ricordo, dalle 21 alle 22. Prima di passare alla prossima ospite, vi ricordo quali sono i titoli principali di oggi. C'è stato questo nuovo dramma dell'immigrazione. Un barcone si è rovesciato nel canale di Sicilia, non lontano dalla Valletta, da Malta. Si parla di circa 50 morti, tra i quali una decina di bambini. E questo è un primo bilancio. Per l'Italia c'è il via libera dell'aumento di capitale. Le Poste Italiane, cioè quello che il socio pubblico, assicurano, entreremo senza usare i soldi dei conti correnti. È passato il decreto sul femminicidio, ora è legge, il provvedimento è passato con 143 sì, mentre Lega, SEL e Movimento 5 Stelle non hanno partecipato al voto. Ne parlavamo poco fa, Silvio Berlusconi si è sfogato a proposito della sua situazione giudiziaria, ha detto: per me c'è un futuro infausto, farò la fine della Timoshenko, cioè dell'ex premier ucraina, e oggi da parte dei suoi legali c'è stata la scelta dell'affidamento ai servizi sociali. A 100 anni è morto Erich Priebke, fu responsabile del massacro delle fosse ardeatine, ma non si è mai pentito. In chiusura il calcio, Danimarca-Italia che si sta giocando a Copenaghen, e sul quale risultato, forse già alla fine del primo tempo, ci può aggiornare Giovanni Capuano in diretta? Sì, in diretta, siamo anche più avanti, Roberta. Bene, siamo Giovanni al sedicesimo del secondo tempo. Ero rimasto un po' siamo 1-1, siamo 1-1, primo tempo che si è chiuso con questo risultato, perché eravamo passati in vantaggio poco prima della mezz'ora con un bel gol di Osvaldo. Poi proprio negli ultimi secondi della prima frazione di gioco siamo stati raggiunti da un colpo di testa di Bezner, che è una vecchia conoscenza del calcio italiano, perché l'anno scorso ha giocato in realtà con scarsa fortuna nella Juventus. Partita non granché, non molto divertente. Del resto per la nazionale di Prandelli è praticamente un amichevole, conta eventualmente soltanto vincere per essere test di serie al mondiale, ma siamo già qualificati, conta un po' di più per la Danimarca, ma i ritmi fin qui sono bassissimi, poche emozioni, si vedono pochi tiri in porta, Buffon praticamente disoccupato in questa prima ora di gioco. Ti dico solo che il Belgio ai mondiali ha vinto 2-1 fuori casa contro la Croazia, e ai mondiali quasi certamente c'è anche la Germania, bastava un punto, sta vincendo 1-0 con l'Irlanda. Non avevamo dubbi, grazie Giovanni Capuano. Ciao Giovanni. Grazie a te. E saluto adesso Barbara Spinelli. Buonasera Barbara. Buonasera a tutti. E con Barbara Spinelli parliamo del finalmente il via libera al decreto sul femminicidio, che è diventato legge. Si temeva che andasse fuori dai tempi, perché dopo essere passato dalla Camera per il Senato c'era la scadenza del 14 ottobre. Oggi finalmente si è votato con 143 sì, poi ci sono stati Movimento 5 Stelle, Lega e SEL che non hanno votato. Barbara Spinelli è avvocata, è stata consulente per l'ONU sul femminicidio e anche consulente per il Parlamento italiano, no? Si è stata audita dalle commissioni delle Camere, commissioni parlamentari per strutturare questa legge, vero Barbara? Sì. Quali sono i punti di forza e poi soprattutto che cosa c'è dentro e sarà possibilmente applicabile? Si parla già, ci sono polemiche, non so, il Movimento 5 Stelle diceva che dentro ci sono soltanto 5 punti che riguardano le donne, il resto è sulla sicurezza in generale, com'è? È vero, questo decreto legge è nato vicino a Ferragosto come un vero e proprio pacchetto sicurezza che contiene sì misure di contrasto al femminicidio, ma anche misure di criminalizzazione del movimento NOTAV, sulla protezione civile e sul commissariamento delle province. Quindi diciamo è stato impropriamente presentato come decreto legge sul femminicidio, un po' per avere una captatio benevolenze su un provvedimento che in realtà è stato in sede di audizione fortemente criticato per come era impostato, sia dalle associazioni femminili, sia dalle camere penali e dagli altri rappresentanti della società civile che sono diciamo che sono stati ascoltati dalle commissioni giustizia e affari costituzionali. È stato criticato perché introduce soprattutto misure repressive in materia di femminicidio. E che per quelle questo, ci vogliono comunque, no? Giustamente. Che ci vogliono però. Assolutamente, che però non sono sufficienti a fermare il femminicidio. Ci vuole anche la prevenzione. che in Italia 10 casi di femminicidio su 7 avvengono quale atto ultimo di una serie di violenze precedenti commesse nell'ambito di maltrattamenti di coppia o stalking, che erano noti alle forze dell'ordine e che non sono stati adeguatamente, nel corso di questi processi, insomma, la donna non era stata adeguatamente protetta, quindi in realtà serviva di più potenziare l'aspetto culturale e la prevenzione. Le commissioni hanno tenuto conto di questo, va detto in parte, e il provvedimento che è uscito, grazie anche appunto a tutte le nostre osservazioni come associazioni di donne, come società civile, il provvedimento che è uscito tiene conto di questo e va, diciamo, a diminuire alcune, a riequilibrare un attimo quella che era la struttura del decreto, perché amplia molto l'articolo 5, che è quello relativo al piano nazionale antiviolenza, e soprattutto lo va a dotare di fondi, pochi diciamolo, ma quantomeno una base di partenza rispetto al decreto legge iniziale, che invece prevedeva l'adozione di un piano nazionale antiviolenza ma senza fondi. Le principali novità positive che introduce questo decreto sono sicuramente una serie di misure che vanno a tutelare la donna nell'ambito del processo penale, in particolare la possibilità di fare l'esame testimoniale in forma protetta con il vetro a specchio anche per donne maggiorenni. Come si vede nei film americani di solito, no? Sì, diciamo. Sì, perché oggi assolutamente nelle aule di giustizia fare l'esame testimoniale di una persona offesa per questi reati, per maltrattamento, stalking, nei casi più gravi, insomma, è rischioso, si trova faccia a faccia, rivittimizzante per la donna, oltre che alle volte addirittura rischioso. Quindi questa era una misura che era richiesta e che con grande gioia accogliamo. Senti, il braccialetto anti-stalking c'è, è passato o no? Braccialetto elettronico? Non è ancora disponibile sul sito del Senato la versione finale, per cui è una sorpresa che insomma dobbiamo ancora verificare. Vabbè, questa. Attendiamo. E dicevi per i centri antiviolenza? Sicuramente il finanziamento per i centri antiviolenza, quindi per il potenziamento e la sopravvivenza delle case rifugio che già esistono. Poi un'altra misura importante nel processo penale è gli obblighi di comunicazione alla donna dell'inizio, insomma, del processo penale e con riferimento alle misure cautelari, obblighi che prima mancavano. E un punto invece negativo è quello che riguarda il permesso di soggiorno alle donne migranti vittime di violenza, perché così come è stato formulato purtroppo è assolutamente inadeguato a ricomprendere tutte le situazioni di violenza che caratterizzano anche le relazioni affettive delle donne migranti, e il rilascio del permesso di soggiorno viene vincolato al parere dell'autorità giudiziaria precedente, quindi significa che una donna straniera che scelga di separarsi da un marito violento e non voglia denunciarlo, purtroppo non potrebbe avere l'accesso a un permesso di soggiorno per violenze, quindi insomma è un forte disincentivo rispetto a tante situazioni che oggi invece esistono. È un altro aspetto sul quale si è combattuto molto in aula, è quello relativo all'irrevocabilità della querela. Infatti, è stata resa irrevocabile, no? Una volta che si denuncia l'uomo violento non si può più ritirare, questa è stata molto dibattuta. Assolutamente, perché per quanto riguarda lo stalking, per lo stalking, gli atti persecutori più gravi è già procedibile d'ufficio il reato, quindi al di là della denuncia della donna o meno, le ipotesi più gravi vanno avanti comunque a livello penale. Invece per le ipotesi più leggere il legislatore ha previsto che si potrà revocare, ma solo davanti a un giudice. Ecco, questo è negativo, perché noi sappiamo che tantissime giovani donne che si trovano in situazioni di stalking non vogliono assolutamente, utilizzano la denuncia per, diciamo, un po' come deterrente per far cessare le condotte, però poi, e questo devo dire la verità, funziona anche, però poi se appunto si deve andare davanti a un giudice per revocare la querela, molte saranno disincentivate dal farlo. Io appunto faccio l'avvocata, molte giovani ragazze vengono in studio da me e mi dicono: avvocata, io non vorrei che poi il mio ragazzo avesse, il mio ex, per i fatti di stalking che fa nei miei confronti, avesse la fedina penale macchiata. Ah, perché tu sei favorevole al fatto che si possa revocare, quindi, Barbara Spinelli? Assolutamente sì. Cioè, dice la decisione della donna, comunque, insomma. Sì, perché molto spesso nelle ipotesi più lievi, che sono quelle per cui è stata prevista l'irrevocabilità davanti al giudice, la querela funziona da deterrente e proprio la possibilità di revocarlo comporta la cessazione di queste condotte, anche nelle liti tra vicini, molto banalmente. Barbara Spinelli, proprio in chiusura, proprio in una parola, alla fine, visto che sei stata consulente per l'ONU, visto che hai seguito anche l'iter della legge italiana, sei soddisfatta? Ci si può dire soddisfatti su questo risultato? No. La realtà è no, perché sono già 2 anni che l'ONU ci ha indicato con chiarezza quello che c'è da fare. C'è bisogno di un piano nazionale finanziato, di una legge organica, di lavorare tanto sulla prevenzione e sulla conoscenza del fenomeno per garantire alle donne l'accesso alla giustizia penale. E tutto questo non poteva stare dentro un decreto legge, quindi sicuramente ci sono alcune piccole misure delle quali possiamo gioire, ma non ci basta, non era questo il modo. Speriamo che ci sia un'attenzione viva e forte da parte del governo e del Parlamento per andare a correggere alcune delle storture presenti in questo decreto e per fare un sistema di prevenzione e di protezione che sia veramente più organico e più conforme a quanto ecco, ci auguriamo appunto dall'ONU, che non sia soltanto una bandiera apparenza e che poi le cose continuino nello stesso modo. Intanto grazie Barbara Spinelli e soprattutto buon lavoro. Grazie a voi. Contiamo su di te. Grazie. Abbiamo la viabilità, gli aggiornamenti per chi sta viaggiando, poi ci sono altri ospiti, altri approfondimenti e i titoli di nuovo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E abbiamo approfondito fin qua varie notizie con gli ospiti in diretta, ma vi ricordo, a parte che c'è la pagina Effetto Notte su Facebook, Effetto Notte trattino Roberta Giordano per riconoscerla, vi ricordo quali sono i titoli principali. Partendo da quello della nuova terribile tragedia dell'immigrazione, a distanza esatta di una settimana dall'ultima, dove ci sono stati più di 300 morti, un barcone si è rovesciato nel canale di Sicilia, si parla di circa 50 morti, tra i quali una decina di bambini. Sono scattati soccorsi con navi ed elicotteri della Marina italiana, il naufragio è avvenuto a 70 miglia dalla Valletta. Per quanto riguarda l'Italia c'è il via libera dell'aumento di capitale e Poste Italiane assicurano che entreremo senza usare i soldi dei conti correnti. È passato, abbiamo parlato poco fa, il decreto contro il femminicidio che diventa quindi legge, il provvedimento passa con 143 sì, Lega, SEL e Movimento 5 Stelle però non hanno partecipato al voto. Si sfoga Silvio Berlusconi sulla sua situazione giudiziaria, dice: per me c'è un futuro infausto, farò la fine della Timoshenko, e oggi i suoi legali hanno scelto l'affidamento ai servizi sociali. A 100 anni è morto Erich Priebke, fu responsabile del massacro delle fosse ardeatine e non si è mai pentito. Calcio, l'Italia gioca in Danimarca, a Copenaghen contro la Danimarca e vedo degli aggiornamenti, sì, sono sempre al pareggio, 1-1. Passiamo al prossimo ospite. Benvenuto Andrea Margelletti. Buonasera a voi, un saluto da una piovosa New York. Ma è piovosa anche Milano, guarda Andrea, quindi il tempo globalizzato, come si dice, anzi oggi c'era il sole, poi ha piovuto stamattina, poi il sole, poi di nuovo il diluvio, questo per parlare insomma del tempo, si usa parlare del tempo a New York, Andrea? Decisamente sì. Decisamente. Come a Londra, come dappertutto. Andrea Margelletti però non è esperto di meteo, ma è presidente del CESI, che è il Centro Studi Internazionali, ed è esperto di antiterrorismo, di difesa. Andrea, a te volevo chiedere, a proposito del Nobel che è stato assegnato, il Nobel per la pace assegnato all'OPAC, no? Questa organizzazione internazionale con sede all'AIA, che combatte contro le armi chimiche e che adesso dovrebbe anzi vedevo un'agenzia poco fa che sembra che sia stato raggiunto un accordo per l'intervento dell'OPAC in Siria. Il Consiglio Sicurezza dell'ONU ha autorizzato il piano del segretario generale Ban Ki-moon per la missione congiunta di OPAC e Nazioni Unite in Siria. Sono molto lieto che i 15 abbiano deciso così rapidamente di confermare le mie raccomandazioni. Insomma, l'OPAC adesso sta operando, l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, all'AIA, per smantellare l'arsenale siriano, no? Si parla molto di armi chimiche. Ci spieghi brevemente, Andrea, in cosa consistono queste armi chimiche e quali sono i paesi che più ne fanno uso? Allora, innanzitutto ovviamente grazie per l'ospitalità e un saluto ai vostri ascoltatori. Grazie a te. Le armi chimiche sono diventate col passare del tempo una sorta di bomba atomica dei poveri, lo dico tra virgolette, e quindi delle armi che permettevano a nazioni non particolarmente sviluppate, ma di sviluppare a loro volta una capacità distruttiva tale da poter essere una sorta di scudo nei confronti di eventuali aggressori. Inoltre tali armi sono state drammaticamente quasi sempre utilizzate, parliamo degli anni recenti, se no dovremmo ritornare ai tempi della Prima Guerra Mondiale, o purtroppo al primo utilizzo delle armi chimiche che, occorre per dovere dovresti dire, è stato fatto dagli italiani in Africa. Sono state utilizzate in questi ultimi, diciamo, 30 anni non come strumento di difesa o di guerra combattuta tra Stato e Stato, ma soprattutto, ripeto, soprattutto come strumento di controllo della popolazione, ovvero con dittatori che hanno impiegato le armi chimiche per stroncare rivolte interne. Queste sono, come sta succedendo in Siria, no? In questa guerra civile che ha provocato, come era peraltro già successo in Siria con il padre dell'attuale dittatore, come è successo in numerosissime occasioni in Iraq sotto Saddam Hussein. Ecco, questo è sostanzialmente l'utilizzo di queste armi. Nella metà degli anni 90 furono anche impiegate in una sola occasione da un gruppo di terroristi, cioè in realtà era più una sorta di setta di esaltati, di matti, alla metropolitana di Tokyo. Ah sì. Però diciamo, le armi chimiche sono molto complicate, soprattutto è complicata la gestione ed è complicato il vettore, cioè come le utilizzi e come le fai. Quindi si prestano più a un utilizzo da parte di realtà statuali, cioè di nazioni, piuttosto che di gruppi terroristici. Senti, l'OPAC, secondo te, che ha vinto appunto il premio Nobel, è in grado davvero di controllare la diffusione, di smantellare le armi chimiche nel mondo? Beh, occorre ovviamente, è un'organizzazione che ha bisogno del sostegno delle Nazioni Unite fondamentalmente, ma ancora di più ha bisogno il sostegno degli attori regionali e degli ambiti nei quali va a operare, perché per andare a controllare le armi chimiche è necessaria assolutamente la collaborazione dei padroni di casa. Tanto per essere chiari, puoi andare in Siria o puoi andare in Iraq ai tempi di Saddam Hussein, sì, e sto veramente citando due casi tipici, emblematici, ma se il padrone di casa vuole tenersi delle carte nascoste nel polsino della camicia, non c'è modo, e non ti dà le carte, tutto diventa tutto molto più difficile, perché è ovvio che senza la collaborazione piena e intellettualmente onesta di chi queste armi le detiene, andarle a scoprire non è proprio così, diciamo, riesce molto meglio nei film di Hollywood che nella realtà vera. Quindi insomma, diciamo, si fa quel che si può, l'OPAC fa quello che può, ovviamente ha una missione, un compito meritevole, però come dicevi tu, bisogna che ci sia poi un accordo con i padroni di casa, diciamo così, altrimenti sì, ognuno si tiene le proprie e usa come proprio questo, anche perché se tu vuoi andare a vedere un sito e il padrone di casa non si trova d'accordo, devi negoziare, non è che puoi prendere dei tuoi elicotteri, sbarcare in un posto ed è cercare e di, dove sono una schioppettata, immaginiamo. Andrea Margelletti, ti ringrazio molto e salutaci New York. Agli ordini, I will do, thank you very much. Ciao. Grazie. A presto, ciao Andrea. E adesso è tempo, visto che parlavamo prima, non so se ci ha sentito il colonnello Mario Giuliacci di Pioggia New York, di Pioggia Milano, che tempo farà in questo fine settimana, caro Mario? Cara Roberta, un saluto ai tuoi ascoltatori. Bene, in 10 minuti ti dirò tutto. No, 10 minuti no, sono 2 minuti. Allora, diciamo che è andata via dall'Italia la perturbazione che tra ieri e oggi ha fatto un po' di sfracelli, freddo e neve al nord, e vari nubifragi qua e là. Per fortuna se n'è andata, ma già ne è aggiunta un'altra sul nord Italia, porterà questa notte piogge sulla Lombardia, sulle regioni di nord-est e sulla Toscana. Domani al mattino ancora piogge su Lombardia, regioni di nord-est e tirreniche, ma nel pomeriggio per fortuna anche questa se ne andrà. E cosa ci aspetta domenica? Domenica un po' di nuvole, c'è un cielo nuvoloso al centro-nord, ma non piove, quindi accontentiamoci di questo. Tempo bello invece al sud. Per quanto riguarda le temperature, beh, sappiamo che è arrivata aria fredda e questa aria fredda ancora rimarrà sul nord Italia, dove le temperature massime sia domani che dopodomani non supereranno i 14-15 gradi, temperature gradevoli al centro, temperature estive, udite tra i 26 e 31 gradi. Quando le temperature estive al centro? Scusa, da domani e dopodomani. Ah. Vuoi fare un viaggio giù a Palermo? Guarda, te lo consiglio. Un po' più vicino. Puoi fare i bagni, senz'altro. Bene, prepariamo il bikini o il costume intero o gli certo. Slip, insomma, perché comunque quindi domenica dovrebbe aggiustarsi un po'? Sì, domenica si aggiusta. Comunque chi vuole maggiori informazioni può consultare il mio sito www.meteogiuliacci.it. Caro colonnello Giuliacci, comunque sia, sereno tempo e meteo a te. Sì, grazie. Come vedi sono stato al di sotto dei 10 minuti. Sì, meno male. Grazie Mario Giuliacci, l'avevo naturalmente minacciato poco prima. E adesso vi aggiorno brevemente sulla partita di calcio che si sta svolgendo a Copenaghen, Danimarca-Italia. Vedo un 2-1 che è per la Danimarca in questo momento per le qualificazioni mondiali, anche se l'Italia... in realtà è già qualificata, ma sta cercando, quindi è un po' più tranquilla, ma sta cercando di guadagnarsi un posto tra le teste di serie dei mondiali in Brasile 2014. Credo che a questo punto possiamo lasciarci per ritrovarci tra poco per un saluto e anche per ricordarvi i titoli e ricordarvi naturalmente che c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, _Roberta Giordano.